kapo yo ligi na bene ni bene ni bene ni e mama akabana ka papa papa boyete yebi sa pa raison. Confiance. tomono.